Batmut, punto, questa è l'introduzione, anzi la descrizione dell'argomento del quale parleremo. Posso appoggiare? Dunque, d'accordo, non c'è dubbio. Sì, l'argomento sia questo. Seconda questione cruciale, l'orario. Allora io quando mi hanno chiesto l'orario ho detto, tanto per risolvere il problema in 448, ho detto, non so, non mi ricordo cosa, tutti i giorni per 2 settimane. Naturalmente non è così, anche perché c'è Pasqua, quindi era subito sbagliato. E vorrei adesso, con i pochi che siete, poi gli altri si adegueranno, nel senso che decidiamo noi chi c'è, c'è. Chi non c'è si adegua e stabiliamo quando dobbiamo fare queste 45 ore. Dunque, io guardo la mia agenda, se voi ce l'avete bene, se no, insomma, più o meno, poi cambieremo 300 volte, quindi. Però intanto ci diamo una direzione, una regolata così. Io propongo dalle 12 alle 16 oggi e domani, tanto per cominciare. Poi c'è Pasqua, poi mi operano all'orecchio sinistro e andiamo al 16 aprile. 16 aprile, se facciamo 4 ore, dobbiamo vederci 11 volte. Da un certo momento io direi che facciamo 6 ore, che tanto si fa per dire, e così accorciamo. E, quindi 16, 17 e 18 aprile, lunedì, martedì, mercoledì. E siamo a 5. E poi io sono via fino al 15 di maggio, di più fino al 20 maggio, un bel casino. Ecco, quindi nella settimana tra il 21 e il 27 è possibile? Eh? Di maggio. No, beh, perché sì, dopo io sono in viaggio dal 22 aprile fino, fra una cosa e l'altra, al 20 maggio, insomma, quel mese lì se ne va. E quindi abbiamo dal 22 al 27, e potremmo fare altre 3 giornate, toglierei lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, scrivo, eh? Cioè 22, 23, 24. E la settimana successiva, bah, sì, diciamo, adesso diciamo 12-16, poi nel tempo magari a un certo punto facciamo 12-17 o 11-17, anzi io non so se voi avete impegni la mattina, so che questa è un'ora generalmente abbastanza vuota, no? Non è vero? Però insomma si può anche. Ah no. Lunedì è il problema. Lunedì è un problema. Martedì anche. Martedì meglio. No, Martedì. mercoledì, Vabbè, giovedì non tanto abbiamo sai. niente. Dai, maggior parte. Comunque, Però se si tratta di 2 settimane. io finora ne ho segnate 2, 5. 8, beh, già 8, se tutte queste 8 fossero da 4 siamo già a 36, 32. Quindi ce ne restano 3. E quindi la settimana tra il 28 e il 3 giugno ce ne mettiamo altre 2, lunedì, martedì e poi. si può sempre recuperare qualcosa nei giorni successivi se non abbiamo completato l'orario. 4 e 5 giugno. Ad esempio il 4 e 5 giugno, se ci resta da recuperare qualcosa, altrimenti già sono 1, 2 e 3, 5 e 3, 8 e 2, 10, 10 per 4, 40, resta un giorno che troveremo nel frattempo, oppure due o tre lezioni le facciamo un po' più lunghe. Dunque, ho enunciato l'argomento, ho cominciato con l'enunciazione del tema. Adesso troveremo anche una formulazione graziosa, ma il tema è evidentemente quello del rapporto tra economia finanziaria e modello comunicologico. Non intendo occuparmi di come i media parlano della finanza, non è questo il punto, per evitare equivoci. Non mi interessano gli strumenti di comunicazione di massa in questo contesto, mi interessa il denaro come strumento di comunicazione di massa. Non so se è chiaro lo spostamento dell'ottica. Non parleremo di radio, televisione, di giornali, naturalmente parleremo anche di radio, di televisione, di giornali, perché questo ci servirà, se questo ci servirà, ma non è il punto. Il punto è il denaro come mezzo di comunicazione di massa. Ma come, scusi? Prego. Come valore di scambio? Cioè nel senso di denaro come valore di scambio? Non ti sembra che il valore di scambio è un medium. Poi il denaro è solo un valore di scambio. Adesso di questo ne parleremo. Infatti. Ma prima, forse è riuscito, ma ho citato un economista americano che si chiama Robert Sordello, il quale in un libricino intitolato Money dice: il denaro e il linguaggio hanno una cosa in comune, sono niente, eppure muovono tutto. Sono niente, tanto per cominciare, da qua cioè, cos'è il linguaggio? È una cosa che possiamo toccare, trovare, preesiste al momento, all'atto stesso del nostro atto di parola. Dov'è? E cos'è? Niente. Eppure muove tutto. E il denaro, anche il denaro, a parte il fatto che in alcuni casi è fatto di pezzi di metallo, di pezzi di carta, talvolta, ma ormai sempre di meno. Dunque è niente. Letteralmente non c'è. Eppure muove tutto. Questa è la premessa da cui parto, ed evidentemente è una premessa che ci porta dentro una questione di tipo comunicologico o anche semiotico e anche linguistico. Ho enunciato tre sfere differenti del sapere, tre sfere disciplinari differenti. Ho detto comunicologico e mi riferisco alla mediologia, comunicologia, cioè la scienza della comunicazione intesa come scienza della trasmissione di contenuti a mezzo media. Questa è la comunicologia, diciamo, la scienza di cui si occupano autori come Marshall McLuhan, Derek De Kerckhove e tanti altri sociologi della comunicazione, Alberto Abruzzese. Poi ho detto semiologico, e lì si tratta di un altro campo disciplinare, di un altro argomento, no? Cos'è la semiologia? La semiologia è la scienza che studia i segni in generale. ovviamente ha qualcosa a che fare con la comunicazione, ma è altra cosa. È la scienza che si occupa di definire ogni ente della natura e dell'artificio in quanto può essere considerato come un segno. Ogni ente, il fumo è un segno in alcuni casi, la nuvola è un segno del fatto che probabilmente fra poco pioverà, la camicia bianca è un segno del fatto che volevo presentarmi cortesemente, pulitamente ai nuovi studenti che sto per conoscere, eccetera, eccetera. Ogni oggetto può essere riguardato come segno. E in questo, poi ci sono i segni, diciamo così, intenzionalmente costruiti con uno scopo, con lo scopo di portare contenuti, di portare intenzioni, di portare, insomma, di comunicare qualcosa. Ma la semiologia si occupa dei segni tentando di definire il loro, la loro struttura e il loro funzionamento. Cos'è un segno? Cosa contiene un segno e che rapporto c'è tra il segno e la cosa? E che rapporto c'è tra il segno e il significato, che non è la cosa? Dunque segno, significato, referente, questo è ciò di cui si occupa la semiologia, argomento del quale anche parleremo. E poi ho detto linguistico, e con la parola linguistico mi riferisco, ah beh, dimenticavo, la semiologia è un altro campo scientifico del quale si occupano studiosi come Umberto Eco, il re dei semiologi, o Paolo Fabbri, il principe, o Charles Peirce, o Algesirdas Greimas, un altro personaggio importantissimo della storia della semiologia, bulgaro, per questo c'è quel nome stranissimo che non si può pronunciare, e semiologia. E poi c'è la linguistica, che è la scienza del linguaggio. Ecco, la linguistica, la scienza del linguaggio fondata nella modernità, sembra, si dice, da Ferdinando de Saussure, che scrive un libro intitolato Corso di Linguistica Generale. La linguistica è la scienza che studia il linguaggio inteso come facoltà umana di significare. Ecco, c'è una differenza tra la linguistica e la semiologia, se ben sottile. E la differenza tra linguistica e la semiologia è che la semiologia si occupa dei segni propriamente, mentre la linguistica si occupa della facoltà stessa di produrre segni. Per cui la linguistica si propone degli argomenti che per la semiologia sono in qualche modo tabù, sono oggetto un po' nascosto. Cioè la linguistica si occupa dell'argomento: il linguaggio è qualcosa che l'uomo apprende attraverso l'esperienza, attraverso l'esercizio, attraverso il rapporto con le cose, o il linguaggio è una facoltà iscritta all'interno del funzionamento cognitivo del cervello umano, o il linguaggio è una facoltà innata agli esseri umani? Domanda alla quale non tenteremo di rispondere, ma è l'argomento, per esempio, del quale si occupa un linguista contemporaneo, forse il più grande linguista del nostro tempo, che si chiama Noam Chomsky. Chomsky si occupa per l'appunto di questo argomento. Facciamo un intervallo fra 10 minuti, Agnese, quindi siediti da qualche parte e stai zitta. Smetti di sorridere, non è concesso. Ecco, dunque, questo solo per dire che il nostro argomento è un argomento che sta lì appeso, sospeso trasversalmente a diversi campi disciplinari: il campo comunicologico, il campo semiotico, semiologico ed il campo linguistico. E la domanda che noi ci dobbiamo porre fin dall'inizio è: ma cos'è il danaro? E perché possiamo parlare del danaro partendo da campi disciplinari come per l'appunto la semiologia, la linguistica e la comunicologia? E anche, una volta che abbiamo stabilito, che anche avessimo stabilito che il danaro è un fenomeno linguistico, che cosa abbiamo guadagnato? In termini di danaro, niente. In termini di conoscenza, qualcosa, forse molto. In termini politici, in termini di cambiamento della condizione nella quale noi ci troviamo, che come vedrete è gravissima, che cosa ci abbiamo guadagnato? Ecco, questa è la domanda più interessante di tutte, naturalmente. Cioè, ci serve a qualcosa capire che la catena essenziale che in questo momento ha preso il posto delle catene di metallo, della guerra, della mitragliatrice, della tortura, così via, e ha preso il posto dei sacerdoti, dei papi. Ci serve qualcosa a capire che questa catena è essenzialmente una catena fatta di linguaggio? Forse sì, forse no, io non ne sono mica sicuro. Anzi, più passa il tempo, più penso che conoscere non sempre ci aiuta a trasformare. E comunque noi ci chiederemo anche questo, dovremmo chiederci anche questo. Il punto di partenza è dunque l'affermazione di un'ipotesi. Il danaro e il linguaggio hanno qualcosa in comune. Sono nulla, eppure muovono tutto. Ma anche, partendo da un autore al quale sempre dobbiamo fare riferimento in sede comunicologica, cioè Marshall McLuhan, il danaro può essere considerato non solo, ma anche un medium. E la questione fondamentale intorno a cui ragiona Marshall McLuhan, come forse voi saprete, è quella di ridefinire il rapporto tra il medium e il messaggio, tra il mezzo comunicativo ed il contenuto che il medium dovrebbe in teoria veicolare. Marshall McLuhan sostanzialmente, nel corso di diversi, in libri diversi e in maniera non sistematica, dice: noi ci siamo abituati all'idea che gli strumenti di comunicazione portano un contenuto che preesiste alla comunicazione. Non è vero, non c'è un contenuto precedente al lavoro di taglio e cucito, al lavoro di combinazione e ricombinazione, di trasmissione che il medium fa. Sostanzialmente McLuhan ci dice: quando voi vi sedete di fronte ad una televisione e l'accendete e la state ad ascoltare, gran parte del lavoro è già fatto. Il messaggio, o meglio l'effetto, l'effetto che il medium produrrà sta nella modalità di trasmissione del medium medesimo. E il contenuto, il messaggio è il massaggio, dice da un'altra parte McLuhan, al quale che era un tipo spiritoso, e il messaggio è un massaggio, è un modo di manipolare, di accarezzare o di diciamo modificare materialmente la condizione del ricettore, la condizione del cervello che ascolta, e quindi di determinarne o influenzarne in buona parte le reazioni, le trasformazioni di contenuto. Questo diceva Marshall McLuhan. E allora noi terremo conto anche di questo, e dunque partiremo dal ragionare sul denaro come un medium, che produce ipso facto, per il semplice fatto di accadere, di esserci o di non esserci, soprattutto di non esserci, produce una catena di effetti che noi dobbiamo esaminare. Non basta naturalmente che il denaro non ci sia, perché esso produca degli effetti. Il denaro che non c'è produce degli effetti solo se noi ne abbiamo bisogno. Se noi non avessimo bisogno del denaro, il fatto di non averne non ci farebbe un baffo. Il fatto che invece ne abbiamo bisogno ci mette in quelle disastrose condizioni in cui, se vi guardate, vi trovate tutti quanti. E, ecco, questo è un po' il campo del mio ragionamento. Per fare questo lavoro, che è un lavoro da equilibrista, intendiamoci bene, nel senso che non penso che le cose quadreranno tanto facilmente, no? Non stiamo facendo un lavoro che non ha ancora fatto nessuno, però ci sono degli autori che su questo argomento ci stanno lavorando, su questi argomenti ci stanno lavorando, alcuni da poco, altri da molto tempo. Christian Marazzi ci lavora da 20 anni, e anche Carlo Marx 150 anni fa aveva già detto alcune cose che vanno come sempre interpretate, ma già aprivano delle vie in questa direzione. Ma non c'è dubbio che ci troviamo di fronte ad una situazione nel mondo degli ultimi anni che è una situazione profondamente nuova, e quindi non possiamo pretendere di avere tutte le soluzioni già pronte, anzi non le abbiamo proprio le soluzioni già pronte. E allora il lavoro da fare è tanto, non lo faremo tutto, cominceremo e cerchiamo di mettere su alcuni pezzi. Ci guadagnerete comunque, perché conoscerete alcuni libri che parlano di questi argomenti in maniera non esauriente, ma vi permettono di inquadrare la questione e anche altre questioni con degli strumenti concettuali nuovi. Dunque non perdiamo tempo, anche se non arrivassimo da nessuna parte, comunque non perdiamo tempo. E dunque quali sono i campi che cercheremo di indagare? Vediamo. Anzitutto io vorrei partire con la lettura di una intervista che trovate sul Alias di ieri, dell'altro ieri, di sabato, di domenica, non so, di sabato. Alias è un supplemento che esce sul Manifesto. Il Manifesto, come sapete, è un quotidiano che si occupa molto della crisi del nostro tempo, e nell'ultimo numero pubblica una serie di articoli e un'intervista su autori che si stanno occupando di questo argomento, in particolare Maurizio Lazzarato, autore di un libro che si chiama La fabbrica dell'uomo indebitato, e David Graeber, che è un inglese, un americano che lavora un po' a Londra, un po' a New York, del quale parleremo molto, e che ha scritto un libro che si chiama Debit. Ecco, il primo punto di partenza per me potrebbe proprio essere questo, la lettura di questi testi, poi ve li fotocopio, ve li faccio avere, E poi, questo potrebbe anche essere il lavoro che facciamo oggi, insomma, oggi cominciamo con la lettura di questo testo. Dopodiché io mi cercherò di seguire una linea, una scaletta, sapendo però in verità che sì, come dicevo, ci muoviamo senza rete, senza una bibliografia già consolidata, dobbiamo un po' inventarcela. E quindi, per esempio, quello che possiamo fare è individuare alcuni grandi campi di ragionamento. Primo campo di ragionamento potrebbe essere proprio di tipo chiaramente comunicologico, cioè la storia dei media e le modificazioni che questa ha portato all'interno del campo dell'economia, in particolare dell'economia finanziaria, internet e la finanza. Non sarebbe successo quello che sta succedendo oggi, nel bene e nel male, se a un certo punto non avesse cominciato a costituirsi quella cosa che noi chiamiamo la rete, fenomeni come il net trading, come la disseminazione infinita dell'azionariato, della possibilità di partecipare al capitale finanziario. Fenomeni come questo non sarebbero stati possibili senza la creazione della rete telematica di internet, e quindi per prima cosa sarebbe interessante andare a ricostruire il rapporto fra rete e finanza. Alla sua origine e anche nelle sue ideologie, nelle forme ideologiche, teoriche, estetiche anche, così come si sono costituite per esempio all'inizio degli anni 90, fra gli anni 80 e gli anni 90, quando la finanziarizzazione dell'economia si mette in moto, si accelera e si incrocia con questo fenomeno che è essenzialmente un fenomeno mediatico. Quindi c'è proprio un terreno propriamente mediologico dal quale noi possiamo partire. La finanza e i media e la trasformazione che internet porta nel campo dei media. L'ideologia della new economy, che nasce in stretta relazione con la realtà della net economy. Cos'è la new economy? Cosa vuol dire net economy? Ecco, questo è un altro argomento. Ecco, dopodiché ci sposteremo verso un discorso meno direttamente collegato alla mediologia, semmai più collegato alla semiologia, cioè cos'è il denaro da un punto di vista semiologico? È uno strumento per lo scambio? Beh, certo che è anche questo, ma è solo questo? E lì cercheremo di definire il denaro rispetto alle funzioni che esso svolge, le funzioni non solo economiche che esso svolge. E poi cercheremo di capire che cosa vuol dire finanziarizzazione, cioè lo spostamento dal campo della produzione materiale, della produzione di cose, verso una economia che sempre di più si autoalimenta, si autostimola attraverso la finzione monetaria. Le finzioni talvolta producono realtà e dunque il denaro, anche come funzione, può produrre, e anzi, come vedremo, produce decisamente realtà. Però che ne è poi del referente in termini semiologici, cioè della cosa, la cosa materiale, del mondo? Ecco, che rapporto c'è tra economia finanziaria e mondo? Qui si apre forse una questione fondamentale per capire l'epoca presente, perché noi siamo abituati a pensare al capitalismo come un sistema in cui la produzione di ricchezza monetaria cresce parallelamente alla creazione di ricchezza reale. Ma non è detto che sia così. Forse può accadere qualcosa di diverso, forse può accadere l'esatto contrario. Ecco qua l'ipotesi alla quale a un certo punto giungeremo, e cioè che noi siamo entrati in una fase in cui ciò che produce, ciò che arricchisce, ciò che valorizza il capitale, non è la produzione, ma l'esatto contrario, la distruzione. Essenzialmente, dunque, un sistema che funziona a rovescio rispetto al modo in cui la modernità ha conosciuto il rapporto tra economia, produzione e denaro. E cos'è il referente, poi ci crederemo, cosa concretamente, come si costituisce nella sfera semiologica il rapporto tra il referente e il significato, tra il referente e il segno, tra il segno e il significato, cosa sono questi livelli e cosa succede nell'economia finanziaria nel momento in cui il rapporto tra il segno e il referente si volatilizza, si frammenta, scompare e il referente viene, per così dire, evacuato e il segno si mette ad auto riprodursi senza più relazione col referente. Vabbè, tutte questioni che, come vedete, ci portano in campi differenti del sapere e che però ci costringono a parlare di economia abbandonando un poco, non del tutto, ma almeno un poco, la concettualizzazione, il linguaggio proprio dell'economia. E prendendo in prestito o piuttosto invadendo campi disciplinari che non sono di tipo economico. Comunque io in questa maniera un poco ho introdotto il nostro argomento. Adesso ci andiamo a mangiare un panino e poi fra 20 minuti io proporrei di leggere un articolo di Ida Dominiani, un'intervista che Ida Dominiani fa con Maurizio Lazzarato, e leggendo questo testo, che è un testo relativamente semplice perché è giornalistico, quindi è scritto per essere compreso anche da chi non conosce semiologia o economia, partendo da qui cerchiamo di tirare fuori gli argomenti che poi dovremo approfondire nel corso del tempo. Possiamo spegnere la macchina?